avessi preso in mano allora il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Come già vi ho detto, cari amici, questo libro lo trovate ormai in tutte le librerie cattoliche, e comunque potete, chi non può per motivi vari acquistarlo nelle librerie può sempre richiederlo qui a Radio Maria. E noi siamo arrivati al capitolo quinto, e stiamo descrivendo la natura pervertita di Satana alla luce della rivelazione. Abbiamo visto nel capitolo quarto che Satana è innanzitutto il nemico giurato di Dio, nei confronti del quale ha giurato un odio eterno. La stessa parola Satana vuol dire avversario, cioè un avversario di Dio, colui che avversa Dio, che odia Dio. Che odia Dio, cari amici. E quindi quando vedete negli uomini l'odio, la bestemmia, potete supporre che è proprio il veleno del maligno che viene inoculato nel loro cuore. Cioè se, diciamo così, se la creatura santa è colei che ama Dio e ama il prossimo, ecco, chi è la creatura pervertita? È colei che odia Dio e odia il prossimo. Allora, Satana è colui che odia Dio e odia il prossimo, cioè odia i fratelli. Odia l'uomo, Satana è il nemico dell'uomo. Che Satana sia il nemico dell'uomo lo dice Gesù Cristo, che lo chiama omicida fin dal principio. Noi abbiamo visto già come Satana si presenti come un falso benefattore, cioè come colui che ci dà ciò che Dio ci nega, come colui che soddisfa le nostre voglie, che ci vuole offrire la felicità. Ma abbiamo visto, cari amici, come questo falso benefattore in realtà ci dia da mangiare il male, e mangiando il male noi moriamo. Questo è il grande insegnamento che ci viene dalla tentazione nel paradiso terrestre, dove ad Adamo ed Eva viene proposto di mangiare il male, cioè di essere loro i padroni della propria vita, perché Dio sarebbe invidioso di questa loro autonomia. Se invece loro avessero deciso di affermare la propria autonomia assoluta, prescindendo da Dio, loro sarebbero stati come Dio. Ebbene, cari amici, quale fu la conclusione? La conclusione fu che Adamo ed Eva persero tutto. Persero Dio, la sua grazia e tutti i doni che Dio aveva dato loro, ed è incominciata questa esistenza crocifissa che l'uomo conduce qui su questa terra. Ecco dunque, cari amici, qual è la vera natura del maligno? Egli ci offre per toglierci. Egli ci offre per distruggerci. Ed è proprio questo che vogliamo analizzare oggi, in questo, sempre nell'ambito di questo capitolo, il nemico dell'uomo. Vorrei, prima di introdurmi in questa tematica così delicata e così importante, vorrei appunto ricordare, cari amici, quel capitolo dove abbiamo detto che Satana si nasconde. Cioè, egli raramente si presenta come un benefattore, così come si è presentato a Gesù nelle tentazioni. Cioè, raramente Satana si presenta direttamente a te. Normalmente lui si nasconde, e quindi ci vuole un grande discernimento, una grande capacità di occhio spirituale, di visione spirituale, per saperlo vedere negli avvenimenti, nelle circostanze, nelle situazioni concrete di vita, nelle persone, le quali molte volte a loro insaputa fanno l'ufficio di Satana. Perché Satana le raggira, le inganna a loro insaputa, e loro raggirano e ingannano te a loro insaputa. Ma in realtà fanno l'ufficio di Satana. Pensiamo per esempio al caso di Pietro, il quale dopo che aveva fatto la sua grande professione di fede E Gesù di lui aveva detto: non la carne, non il sangue, ma il Padre mio te l'ha rivelato. Quindi a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Poco dopo però Gesù dice che il suo futuro sarebbe stato un futuro di sofferenza, di crocifissione, di morte, e allora Pietro si scandalizza, chiama in disparte Gesù e gli dice: non sia mai che tu debba affrontare la via della croce, tu non devi parlare in questo modo. E Gesù gli risponde: va via da me, Satana. Cioè, in quel momento Pietro, a sua insaputa, faceva l'ufficio di Satana, cioè cercava di sviare Cristo dalla via della croce, di distogliere Cristo dalla via della croce. Allora, è proprio nelle circostanze della vita, negli avvenimenti, perfino nelle persone, cari amici, che dobbiamo vedere colui che si accosta a noi per offrirci qualcosa che in realtà ci distrugge. Io penso, per esempio, cari amici, ai nostri giovani che vanno in discoteca, no? E, quando trovano coloro che smerciano la droga, ecco, lì è Satana che opera, non c'è dubbio, cari amici, che offre il paradiso. Non a caso molte discoteche si chiamano paradiso, offre la droga, offre l'alcol, offre il sesso, offre per distruggere. Il suo obiettivo è di distruggere tutto ciò che di buono Dio ha fatto fiorire nella tua anima. Vuole distruggere l'uomo intero, lo vuole distruggere nella sua vita spirituale e quindi nei suoi sentimenti di bontà, di fede, di amore, di generosità, lo vuole distruggere nella sua psiche, lo vuole distruggere anche nel suo corpo. Vuole distruggere l'uomo, il singolo, cari amici, vuole distruggere le famiglie. Noi sappiamo quale scempio oggi Satana stia provocando nelle famiglie e quale attacco stia portando a quelle istituzioni di Dio che è il matrimonio monogamico. Ma come fa Satana a distruggere le famiglie? Lo fa attraverso le passioni degli uomini, attraverso la propaganda contro la famiglia, attraverso molte volte i mass media, attraverso le legislazioni civili. È lui che opera per distruggere le famiglie. Non è che noi lo vediamo direttamente. Difatti, noi non è che vediamo direttamente il demonio nelle discoteche dove si dà la droga, o lo vediamo dove le famiglie vengono distrutte. Però la regina della pace, sapete cosa ha detto, no? A Međugorje, cioè che Satana oggi opera per distruggere le famiglie e opera per sedurre i giovani attraverso il loro tempo libero. Quindi, egli opera di nascosto all'interno della società, offrendo qualcosa che luccica ma che in realtà distrugge. Distrugge le persone, distrugge le famiglie, poi opera per distruggere la società. E questo lo fa in tanti modi. Uno dei modi con cui Satana cerca di distruggere la società è la guerra. È la guerra. Ecco perché bisogna essere sempre molto fermi nel analizzare, nel denunciare la guerra, perché, cari amici, dietro la guerra c'è colui che vuole distruggere attraverso la guerra il mondo. A questo riguardo vorrei ricordare due interventi della Regina della Pace su questo tema, quando c'era la guerra del Golfo, quando c'era la guerra del Golfo la Regina della Pace disse: state attenti che Satana vuole distruggere l'intera terra. Evidentemente il suo obiettivo era quello di portare una guerra nucleare. E anche recentemente, quando ci fu la guerra del Kosovo, già nella guerra in Bosnia, la Madonna disse: Satana si sta prendendo il gioco di voi. Ultimamente, cioè sempre ultimamente questa guerra, questi dal 91 in poi, non si può distinguere la guerra del Kosovo da quella della Bosnia, è tutto un processo, di un processo, diciamo, unitario, che naturalmente molti leggono sotto un profilo politico e sociale. Io non nego che si possa dare una lettura anche da questo punto di vista, però si può dare anche una lettura dal punto di vista soprannaturale. E naturalmente nei Balcani Satana puntava, a mio parere, a una conflagrazione, diciamo così, nucleare, tale da poter distruggere l'umanità. Diversamente non si spiega questa presenza della regina della pace che anticipa Satana e lo vuole bloccare. Questa presenza così lunga, per 20 anni, della regina della pace proprio in quei luoghi non è spiegabile senza un gravissimo pericolo per l'umanità intera, che forse non è del tutto scongiurato. Le minacce della guerra nucleare, come vedete, sono all'ordine del giorno. E allora, naturalmente, di questi eventi si può fare un'analisi politica, e quando si fa un'analisi politica, naturalmente, ci possono pareri diversi. Però noi non possiamo accontentarci di un'analisi politica. Noi dobbiamo fare un'analisi soprannaturale, imparando dalla regina della pace a questo riguardo, ma imparando anche dalla Bibbia, cari amici, perché la Bibbia ci mostra come Satana, la parola stessa diavolo, vuol dire colui che si mette fra mezzo, cioè divide, colui che divide. È il seminatore di zizzania, dice Gesù. Il seminatore di discordie, quindi opera nella società per mettere gli uni contro gli altri, per suscitare le guerre, ed è appunto la regina della pace che disse in quei tempi della guerra in Bosnia: Satana si prende il gioco di voi, e disse questa frase: Satana vuole la guerra. E ai tempi della guerra del Golfo disse Satana vuole distruggere la terra. Che Satana voglia distruggere la terra non c'è dubbio, questo è il suo programma: distruggere l'umanità. Quindi lui seduce per distruggere, seduce gli scienziati, ha sedotto gli scienziati che hanno usato questo dono grandissimo di Dio, che è l'energia atomica, l'hanno usato per la distruzione, ha sedotto gli scienziati, non c'è dubbio. Quindi non dobbiamo vedere Satana dappertutto, ma va visto dove c'è. E laddove viene distrutto tutto ciò che c'è di bene, di spirituale, tutto ciò che c'è di bello e di buono anche sul piano umano, laddove viene distrutta la pace, laddove viene seminata la zizzania, laddove c'è distruzione, là c'è lui, là lui è presente, come d'altra parte, laddove c'è, lo sappiamo, ubi caritas et amor, Deus ibi est. Dove c'è carità e amore, dice Dio, ma è vero anche il contrario, cari amici. Dove c'è l'odio e la distruzione, lì c'è Satana che opera. Infatti lui seduce, perché seduce? Seduce per farci suoi, per distruggerci. Per strapparci da Dio, per cancellare in noi l'immagine di Dio e farci immagine sua. Seduce per distruggere, non fatevi illusioni che sia un benefattore, perché tutto ciò che lui ci dà è avvelenato. Tutto ciò che ci distoglie dalla via di Dio, che lui ci offre lungo la via del male, è per la nostra morte, è per la nostra infelicità, come tutti quelli che hanno percorso quella strada possono testimoniare, cari amici. Allora vediamo questo capitolo, a pagina 35 del Il Falsario. Intitolato questo paragrafo, l'arte del distruggere, che è un'arte satanica tipica. E appunto leggiamo e commentiamo quello che abbiamo scritto. Satana seduce per distruggere. La sua attività è esattamente opposta a quella di Dio. Se Dio è creatore, Satana è distruttore. Se Dio è la vita, Satana è la morte, proprio la morte nel senso dell'antivita, cioè invece dell'amore c'è l'odio, invece della verità c'è la menzogna, invece della luce c'è la tenebra e così via. No, questa è la morte. Le immagini bibliche del leone ruggente, prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 8, e del drago infuriato, Apocalisse 12,3. Queste immagini bibliche esprimono molto bene la violenza distruttiva del maligno, cioè il drago e il leone, il drago infuriato e il leone ruggente, del maligno che nei confronti della creazione di Dio e in particolare dell'uomo. Infatti sia Pietro sia Giovanni, quando parlano di drago, Giovanni parla di drago infuriato e Pietro di leone ruggente, dicono che è per divorare l'uomo, divorare la Chiesa, divorare Cristo. D'altra parte Satana ha cercato di distruggere anche Cristo. La violenza che dilaga nel corso della storia, rendendo l'uomo lupo all'uomo e arrossando di sangue tutta la terra, cioè questa storia dell'umanità che è storia di violenza, cioè la storia dell'umanità è storia di distruzione e di violenza, cari amici, che ha avuto il culmine in questo secolo con due guerre mondiali, no? Con l'esplosione delle atomiche a Hiroshima e Nagasaki, eccetera. Questa storia dell'umanità, in cui appunto c'è un fiume in piena di sangue che scorre, non sarebbe comprensibile senza il veleno dell'odio che il serpente inietta nelle vene dell'umanità. E non c'è dubbio, cari amici, che la guerra, la violenza, il sangue, questa ferocia che c'è nell'uomo, sia l'effetto più evidente dell'azione satanica nel mondo. Cioè l'effetto più chiaro, più evidente dell'azione satanica nel mondo è la violenza, è l'odio, è la distruzione, l'effetto più evidente, ecco. E che lascia anche perplessi, perché uno che studia la storia dell'umanità rimane allibito, vedendo la violenza da cui è caratterizzata e che la Bibbia testimonia fin dall'inizio. Dopo il peccato originale, Caino uccide Abele. Che cosa distrugge il maligno? Innanzitutto le singole persone. Cominciamo con i singoli, poi con le famiglie, poi con la società. Innanzitutto le singole persone. Tutti coloro che entrano nelle spire della sua seduzione sono sottoposti a una crescente opera di disgregazione spirituale e morale, cioè distrugge le persone, le rende brutte, le rende violente, le rende cattive, le rende infide, le rende perfide, le rende avide, le fa a sua immagine. Dunque, innanzitutto, opera il maligno per distruggere le persone, per pervertirle, e le sottopone una crescente, e quelle persone che a lui aderiscono, incominciano un cammino di disgregazione spirituale e morale. Non c'è uomo che Satana non tenti al male. Il combattimento spirituale è una necessità per tutti coloro che desiderano conservarsi e progredire sulla via del bene. Ma chi non lotta, impegnandosi nell'esercizio delle virtù, diviene preda del maligno che distrugge tutto ciò che Dio aveva costruito nella sua anima. Tutto ciò che di bello costruisce Dio in te, cioè i sentimenti di pace, di amore, di gioia, di perdono, eccetera, li distrugge e li sostituisce con sentimenti di odio, di perfidia, di inganno, eccetera. Quest'opera di devastazione spirituale, non potete trovare una parola migliore, devastazione spirituale, cari amici, che spesso gli adulti riescono a coprire sotto una maschera esterna di rispettabilità, è particolarmente visibile nei giovani. Dopo che hanno ricevuto un'educazione religiosa in famiglia e in parrocchia, scoprendo Dio e la pratica del bene, ecco che Satana riesce ad attirarli a sé con i molteplici volti delle seduzioni del mondo, attraverso amicizie ambigue e falsi maestri, li priva in poco tempo di Dio, della fede e della preghiera. È incredibile come li riduca a zero, li privi di tutto. Cosa rimane loro? Il telefonino, non di più. Guardate che li priva di, in 448, con le amicizie ambigue, i falsi maestri e le false luci del mondo, in poco tempo li spoglia di tutto ciò che avevano avuto, li spoglia di Dio, della fede e della preghiera. Poi li spinge sulla via del sesso libero, del denaro facile, del divertimento. E appunto mi interessa mostrare soprattutto l'opera di distruzione nei giovani. Sapete perché? Perché in essi è più visibile questa azione. sono meno, i giovani sono meno scaltri nel coprire sotto la foglia di fico la devastazione spirituale che Satana opera in loro, mentre gli adulti in questo sono molto più attenti a salvare la loro rispettabilità esterna, anche se internamente sono diventati feroci e rapaci. Ripeto, questa opera, ditemi voi se non è vera, che fanno i confronti dei nostri giovani. E dopo che hanno ricevuto un'educazione religiosa in famiglia, in parrocchia, scoprendo Dio e la pratica del bene, ecco che Satana riesce ad attirarli a sé con i molteplici volti delle seduzioni del mondo. Attraverso amicizie ambigue e i falsi maestri, li priva in poco tempo di Dio, della fede e della preghiera. Poi li spinge sulla via del sesso libero, del denaro facile e del divertimento. Dopo alcuni mesi, questi medesimi ragazzi sono irriconoscibili. Sedotti dalle cose materiali, hanno smarrito i valori guida della vita. Spenti sul piano spirituale e degradati sul piano morale, hanno perso la capacità di pensare al proprio futuro. Vivono in un presente ripetitivo, dove cercano con i piaceri effimeri di colmare il vuoto esistenziale che li insegue come un'ombra. Proseguendo su questa strada finiscono per rompere ogni argine morale, compromettendo la loro vita nella violenza, nel furto, nei disordini sessuali, nell'alcol e nella droga. Vedi come li prende, che erano buoni, bravi, ben formati dalla parrocchia e dalla famiglia, e come li riduce, li distrugge. Questa è opera tipica di Satana, è la sua opera. Guardati in giro e osserva lo spettacolo impressionante di tante giovinezze che il grande seduttore ha condotto sulla strada di una rovina totale. Sono esistenze distrutte che solo il miracolo della grazia può sanare con un lungo e faticoso cammino di guarigione. Allora io naturalmente ho mostrato quest'opera soprattutto sui giovani perché ci stanno più a cuore, perché sono i più indifesi, ma anche perché è proprio in essi che è visibile di più questa azione distruttiva che svolge il maligno non soltanto su piccoli gruppi, ma ormai su gran parte di un'intera generazione. La medesima attività, dunque abbiamo visto l'opera di distruzione per esempio sui giovani, no? La medesima attività di progressiva distruzione è portata avanti instancabilmente nei confronti delle famiglie. Il diavolo, come dice lo stesso vocabolo greco, la parola diavolo, è colui che divide, vuol dire colui che divide il diavolo. Il diavolo è colui che si mette attraverso, che divide. La sua opera di divisione incomincia con la cellula fondamentale della società, che è la famiglia. In questo campo la sua forza di disgregazione ha prodotto effetti impressionanti. Questo gli è possibile perché i giovani si presentano al matrimonio il più delle volte già spiritualmente vuoti. Essendo la loro unione costruita sulla sabbia e non sulla roccia, per l'infaticabile devastatore è un giochetto distruggere le coppie anche solo dopo pochi mesi di vita in comune. Come vedi, caro amico, l'opera di distruzione del maligno incomincia in ogni singola anima, passa attraverso le famiglie e approda poi nella società. Per la verità, egli non deve faticare molto per portare una società allo sgretolamento morale e al crollo totale. Una società, infatti, altro non è se non la somma delle persone che la compongono. Quando la maggioranza dei membri di una società è formata da individui vuoti, senza ideali e senza moralità, Satana non ha difficoltà a spingere questa società verso la violenza, l'egoismo, l'intolleranza e l'ingiustizia. Da qui, per approdare alla guerra e alle forme più brutali di distruzione, fino a compromettere il futuro dell'umanità e perfino l'esistenza stessa del mondo, il passo è breve. quando lui è riuscito a impadronirsi dalla politica, dall'economia, dalla scienza, dei mass media, dove ha messo le persone nelle quali lui abita, portare questa società alla distruzione e perfino alla distruzione del mondo, il passo per Satana è breve. E così si spiega, solo così si spiega questo lungo stare della regina della pace in mezzo a noi, per ricostruire spiritualmente e moralmente la società. Cari amici, è vietato farsi qualsiasi illusione riguardo alla volontà di Satana di distruggere le persone come la società intera. Nessuno si illuda che non tenti questo. Certo, la sua potenza e la sua libertà di azione sono soggette al potere di Dio, il quale limita, secondo la sua sapienza, l'ambito di azione del maligno. Tuttavia, egli permette, cioè Dio permette, che noi constatiamo con i nostri occhi che cosa fa il demonio delle persone che si consegnano a lui. Pensa ad esempio a Giuda e alla sua orribile fine. La stessa fine spesso è l'atto conclusivo della vita di chi ha avuto fiducia nel falso benefattore. Cioè, Satana è entrato in Giuda e Giuda si impiccò. La stessa fine spesso è l'atto conclusivo della vita di chi ha avuto fiducia di questo falso benefattore. Ma senza arrivare a questi estremi, osserva l'esito finale di chi ha avuto, di chi ha voluto percorrere la via della rovina illudendosi di trovare la felicità. Non sono forse esistenze vuote, tristi e disperate? Ecco, cari amici, l'azione, l'effetto conclusivo della presenza di Satana nella vita umana. Esistenze vuote, tristi e disperate. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio. Edizioni Sugarco.